Ciao a tutti e benvenuti al 16° episodio del podcast del Tentacolo Viola. Oggi puntata speciale. Comunque iniziamo a presentare gli ospiti. Insieme a me c'è come sempre Andrea Maderna. Ciao. Paolo Cego. Buonasera. E abbiamo per la prima volta niente popò di meno che il dottor Manhattan in carne e ossa, ovvero hai più conosciuto come Alessandro Apreda. Ciao Alessandro. Ciao, ma se non ti ricordi il mio nome non è che fa molta figura, l'ospite speciale sono... e poi non ti ricordi come mi chiamo, iniziamo malissimo. Comunque, a parte che ormai secondo me più è conosciuto come Dottor Manhattan, perché effettivamente, tipo 8 milioni di persone sul blog. Mi sono incasinato le cose, oh, caspita, sono vecchio e stanco, ok? Bene, va bene. Allora Alessandro, innanzitutto grazie di essere qua per questa puntata speciale che, diciamolo subito, non parlerà di videogiochi, ma visto che non è capito una mazza dall'ultimo episodio del Tentacolo Viola, quello post E3, abbiamo deciso di fare un episodio, visto anche la presenza di Alessandro, sui fumetti e i film tratti dai fumetti, in particolare sui supereroi. Vediamo cosa viene fuori, perché è un'idea bislacca che mi è venuta insomma qualche giorno fa e boh. Comunque Alessandro, visto che tanto c'è molta più gente che segue te che segue il Tentacolo, così, però se vuoi presentarti, dire chi sei, cosa fai di bello, ci fai un grosso piacere, vero? Mi chiamo Alessandro, ho 35 anni, volevo fare il pornostar, ma ho deciso di occuparmi di videogiochi perché più o meno mi dava le stesse sensazioni. Mi occupo per lavoro, faccio il responsabile editoriale della rivista Play Generation e dei siti videogame.it e filmreview.it, e nel tempo libero, che significa in genere tra le 4:30 e le 6 del mattino, mi occupo di, nel tempo libero gestisco un blog che si chiama L'antro atomico del dottor Manhattan, che ha raggiunto il considerevole numero di contatti. a 1,5 milioni di visite. La cosa bellissima è che il blog esiste da 4 anni, ma nei primi 3 anni ha fatto 90.000 visite e tutte le altre le ha fatte negli ultimi 11 mesi. Beh, ottimo. Giusto così per... tu sei un fumettaro, leggi da sempre fumetti e ti occupi anche di cinema. Cosa pensi di questo andazzo di, insomma, negli ultimi anni, diciamo in realtà da Spider-Man fino adesso, che esce un film di supereroi praticamente ogni giorno? Cosa ne pensi? Come tutti gli appassionati di fumetti che hanno coltivato la loro passione dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90, ho vissuto quella fase in cui si sognava un periodo come questo, perché si desideravano film di supereroi e non ce n'erano. Abbiamo aspettato per tanti anni un film di Spider-Man perché il film era finito nel limbo per una questione di diritti, la Carolco che aveva comprato questi diritti e poi era fallita, eccetera eccetera. Poi questi film sono arrivati e penso che prima ancora di Spider-Man il primo film vero e proprio di nuova generazione sia stato Blade, ma credo che il primo film di supereroi vero e proprio debba essere considerato il primo X-Men, che mi pare sia del 2000. Sono arrivati, sì. Finalmente c'erano sullo schermo, si poteva andare a vedere al cinema a vedere i supereroi Marvel ed era una figata pazzesca, e questo è durato più o meno un paio d'anni, perché poi con un andamento perfettamente sinusoidale si è incominciata la discesa verso i film di merda che sono arrivati nel 2004-2005. Quindi all'entusiasmo iniziale, alla figata, c'è Spider-Man che si spenzola in mezzo ai grattacieli di New York ed è vero, è bellissimo, e ci stanno gli X-Men e c'è Wolverine, anche se c'ha le basette ridicole, però è figo, c'ha gli artigli e tutto. E poi sono arrivati i film più brutti, sono arrivati i vari Punitore, Elektra, quei film di merda lì. Adesso secondo me piano piano stiamo risalendo, perché lungo questo andamento sinusoidale abbiamo ricominciato a salire, perché sono usciti dei film ultimamente tra il carino e il molto bello. Però non grazie a Green Lantern. Ecco, Paolo ieri è andato a vedere Green Lantern, che insomma è uscito questi giorni, no? Proprio recente. Dici un po' cosa ne pensi di questo personaggio un po' controverso che non molti conoscono, oltretutto, se non seguono i fumetti, oltretutto. Ok, mi lasciavo la sorpresa per dopo. No, vai. Ma io ammetto che il fumetto lo leggevo a scrocco da mio fratello, non era nella mia top 10 degli eroi che mi interessassero minimamente. Forse qualche, se non mi sbaglio, faceva parte della Justice League. Quindi casomai mi beccavo episodi quando lui faceva compagnia Superman e Batman. Più che altro cioè, da quello che poi si vince anche dal film, quel poco di buono che si vince, è un personaggio che effettivamente avrebbe un potenziale infinito, perché col suo, ha questo potere dell'anello, che con il willpower, con la forza del com'è willpower in italiano? Forza di volontà, grazie mille. E lui per realtà può fare qualsiasi cosa. Il problema è che il film è penoso anche a un livello di sceneggiatura, perché lo sceneggiatore non sfrutta minimamente in modo creativo, o comunque il minimo indispensabile, il potere dell'anello. E a livello di fumetto vero e proprio io non l'ho seguito, però mi dà l'idea che gli sia mancata un po' la fase, il trattamento Miller, cioè da, tipo un personaggio magari simile questa cosa della Marvel, che comunque come Daredevil, fai conto, che secondo me è un personaggio abbastanza anonimo. Beh, non è che il film è spicchi per... Esatto, è un film che è al pari livello di Green Lantern, cioè fa il minimo sindacale, ha una checklist di cose che deve per forza riscontrare per far piacere ai vari producer, però da una parte c'è Daredevil, che comunque almeno un fumetto ha avuto il trattamento Frank Miller con Born Again, che non so quando è stato negli anni 90, che comunque ha riscritto un attimo il personaggio e l'ha messo in luce diversa, l'ha fatto diventare all'improvviso interessantissimo come personaggio. Secondo me a Green Lantern gli è mancata un po' quella fase, e a tutt'oggi per me resta un personaggio completamente inutile, tanto più che l'unico motivo per cui sono andato a vedere Green Lantern ieri era appunto perché poi sapevo che sei venuto qui in questo podcast e avrei dovuto parlare di film di supereroi, ecco. E perché X-Men lo davano troppo presto? X-Men First Class, sì, quello mi sembra, perché almeno le recensioni di quello sembrano decenti, no? No, quello è bello. Invece, Andrea, secondo te, io il primo film di supereroi che mi ricordo è Superman, con Christopher Reeve, anni 70. Scusa, ma Paolo sta giocando con la pentola a pressione? No, quello è la mia ragazza che cucina. Ah, ok. Quindi qualcuno sta giocando con la pentola a pressione, ma non è Paolo. Scusa se ti ho interrotto. No, dicevo, io il primo film di supereroi di cui ho memoria è Superman, a fine anni 70, devo averlo visto in televisione all'inizio degli anni 80. Ma secondo te un ragazzino che andava a vedere Superman al cinema fine anni 70, un ragazzino che va a vedere adesso un X-Men o un Capitan America, fa lo stesso o adesso è più figo, o era più figo una volta che c'erano, insomma, magari c'era meno casino visivo, però era più incentrato sui personaggi? Ma forse, anche se a rivederli adesso ti viene da sorridere, forse Superman quando è uscito faceva più scena, perché magari eravamo meno abituati a vedere la gente che volava, cioè non lo so, perché io all'epoca non credo di averlo visto al cinema, francamente. No, neanche io, me l'ho visto in televisione, però... Però, nel senso, vado a vedere adesso Iron Man, per dire, e per me personalmente, wow, figata, sto vedendo Iron Man che vola al cinema, ma per me che sono appassionato di fumetti, però non è che siano mancate le robe fantastiche e spettacolari al cinema ultimamente. Eh no. Effetti speciali, voglio dire, se hai visto Avatar, che ti piaccia o meno, non è che Thor ti fa vedere qualcosa di molto meglio a livello di effetti speciali. Beh, anche il primo Transformer, per quanto sia di Michael Bay, comunque a livello di effetti... Abbiamo visto i robot alti come i palazzi che si menano, che effetto vuoi che mi faccia un cretino con la tuta verde? Però in 33 anni alla fine mi è sembrato, cioè dall'inizio, da Superman ad oggi, comunque le case di fumetti hanno preso in mano il mercato, cioè adesso la Marvel è lei stessa, no? Che si produce i film e non dico che faccia tutto da sola, perché la distribuzione non è sua, credo, però comunque ci mette i soldi in prima persona, mentre una volta erano... insomma, c'erano i personaggi in licenza. Sì, beh, Spider-Man e X-Men, se non sbaglio, non sono gestiti direttamente dalla Spider-Man Marvel. Sicuramente, almeno non so il reboot di adesso che faranno, però no, ma penso neanche quello, ma penso che addirittura anche questo reboot lo facciano proprio perché vogliono continuare a tenerselo loro, come le medicine quando gli cambiano la ricetta per continuare ad avere il brevetto. Bene. Però sì, cioè quando la Marvel ha deciso di scendere in campo un po' alla Berlusconi ha cominciato a prodursi loro i film, tant'è che tutti i film fatti direttamente da loro li hanno infilati dentro il mega crossover per fare poi Vendicatori. Sì, che secondo voi non si rischia, Alessandro, non si rischia di arrivare a una sorta di overdose? Cioè, veramente, capisco l'appassionato, ma secondo me alla fine anche lui rischia di avere troppo, cioè di, no, di sbattersene poi di andare a vedere il film successivo. È quello che ci stiamo chiedendo da 12 anni, perché da quando è uscito X-Men tutti pensavano che questo genere dei cinefumetti, come sono stati ribattezzati con questo orrido neologismo in Italia, fosse destinato prima o poi ad esaurirsi. In realtà è diventato un sottofilone del genere d'azione. Per Hollywood è facile avere del materiale già pronto e da utilizzare che abbia già un minimo di appeal presso un certo numero di appassionati, non tanto i lettori di fumetti, anche perché ormai in America sono veramente pochi, quanto persone, comunque spettatori abbastanza giovani che conoscono quei personaggi perché li hanno visti nei cartoni animati o perché comunque sanno che Iron Man è un tizio che vola dentro un'armatura. Sì, perché adesso paradossalmente, scusa se ti interrompo, e il pubblico non è più cioè ce n'è tanti ovviamente di lettori di fumetti della nostra età, diciamo, però la maggior parte, lo zoccolo duro, sono ragazzini che sicuramente non hanno non hanno letto tantissimi fumetti di questo genere. È chiaro, i fumetti americani ormai vendono pochissimo, gran parte dei fumetti tra i 50 più venduti vendono cifre ridicole, poche decine di migliaia di copie, quindi non puoi pensare di fare un film da 100 milioni di dollari e sperare di guadagnare semplicemente tirando dentro quelli che stanno leggendo quel fumetto in quel momento. Certo. Ma tutte le persone che comunque sono bene o male affezionate al personaggio, sono personaggi, sono delle icone pop, cioè tutti sanno chi sono i Fantastici 4 in Italia, anche se continuano a chiamare la cosa l'uomo roccia, e quindi quando c'è un film dei Fantastici 4 dicono ah figo, me lo guardavo da piccolo, il cartone animato, andiamo a vedere il film, ma magari non hanno mai letto un solo numero del fumetto in vita loro. Film i due che sono terrificanti, e forse sono il secondo è meglio del primo, però sono la coda di quella fase bruttissima di cui parlavo all'inizio, e insieme al terzo film degli X-Men, un sacco di altri, Ghost Rider, un sacco di altri. Mamma film, mia, mamma, me l'ero dimenticato, l'avevo rimosso Ghost Rider. Beato te, veramente veramente brutti che sono usciti in quegli anni lì. Secondo me si va verso la serializzazione, cioè fin tanto che una saga funziona, riesci a tirarne fuori un tot di film a distanza di 2-3 anni l'uno dall'altro, 3-4 anni l'uno dall'altro, e quindi vai avanti ancora per un altro decennio. Non è un caso che siano in lavorazione già il secondo film di Thor, Iron Man 3, e come diceva Andrea, Avengers, il film dei Vendicatori, che sì, qualora funzionasse sarebbe un nuovo punto di partenza di suo, perché è una figata vedere tutti gli eroi dei film precedenti, tranne Hulk, perché non c'è Edward Norton, in un unico film. Sì, tra l'altro è anche, cioè, è un progetto anche, se vogliamo, bisogna concederglielo, piuttosto ambizioso, perché insomma è una roba che non è che mi sembra sia stata fatta granché prima di fare 4-5 film che poi si ricollegano tutti in un film che li unisce tutti assieme. Poi quello che ti lascia sono 4-5 film dei quali magari se ne salva uno, però il progetto in sé... Sì, il problema è proprio questo, che per molti aspetti Thor è stato tirato via e i soldi che ci hanno messo erano quelli che erano, anche perché secondo me Marvel Studios, che ha prodotto direttamente Thor, che ha prodotto direttamente il film dei Vendicatori, aveva quel budget lì, quindi se Thor l'hanno girato anziché a New York, in una cittadina sperduta del Messico... E il motivo gli effetti speciali, c'è, un po' lasciano a desiderare in tutto il film, tranne per le parti girate lì ad Asgard, si poteva fare molto di più intorno in termini di effetti speciali, secondo me anche perché si stavano già tirando il tutto per il film dei Vendicatori. Volevo chiedere una cosa, questa è ignoranza personale, i Fantastici 4 non fanno parte non fanno parte della continuity dei Vendicatori, non ci sono mai nei Vendicatori i Fantastici 4. Ma l'universo Marvel fumetto è tutto un insieme unico. Ma scusate, ma l'attore che fa la Torcia Umana, vabbè, non è lo stesso che fa Capitan America? Sì. Vabbè, ma dai, il doppiatore di De Niro e quello di Coso... ma quello è diverso. Vabbè, ma sono collegati nel senso, a livello cinematografico sono due universi separati, quindi non c'è problema. Ah, ok. Perché io quando ho iniziato questa, insomma, appunto, saga di fumetti portati al cinema uno dietro l'altro, temevo che facesse la fine di Guitar Hero come brand, no? Cioè che dopo un po', che palle, no? C'è sempre un fumetto, cioè... Invece comunque sono riusciti, dopo effettivamente un periodo bassissimo della sinusoide di cui parlava Alessandro prima, sono riusciti a risalire molto bene, perché comunque adesso Paolo non l'ha vista, però X-Men First Class, che in italiano l'hanno tradotto con, non mi ricordo, l'inizio, forse all'inizio, esatto, è a mio avviso un ottimo film, magari pecca un po' di effetti speciali, però tutto sommato il fatto perché che nel senso che troppi o sono fatti male? No, non sono un granché perché non ci hanno speso anche lì molti soldi, però il film, sono d'accordo, è veramente bello. Il film è bello, vabbè, adesso non faccio spoiler, però ovviamente ci sono delle licenze per ricollegare, cioè secondo me la prima parte è fighissima, però fighissima, con un personaggio in particolare che è stratosferico, ben al di sopra di tutti gli altri. Vabbè, poi, quello, cioè puoi dirlo qual è il personaggio? È Magneto. Stai parlando ovviamente dello Xavier con la faccia da coglione. No, del crudelissimo e vendicativo Magneto. E mentre poi, vabbè, poi nella seconda parte del film, probabilmente per ricollegarsi a tutta la ai primi due, perché alla fine è il prequel dei primi due, hanno dovuto caratterizzare in maniera più precisa, fumettosa, i personaggi. Però tutto sommato, appunto, effettivamente vedendo film del genere la gente non si stufa, forse avendoli a cadenza così vicina, perché X-Men cos'è, uscito 2 mesi fa in Italia? Sì. Adesso c'è Capitan America il 22 luglio, forse... Sì, e poi c'è stato Thor poco prima. Forse un po' esagerato questo... Però se tu li consideri come film d'azione, cioè voglio dire, se guardi il genere di film d'azione, non è che ne escono 4-5 tutto sommato a stretto giro di tempo. Sì. È che tendi a identificare i film di supereroi come una cosa a parte, ma... Però, è anche un po' colpa loro, comunque. Sì. Colpa loro di chi? Dei supereroi? No, dei film dei supereroi. Sì. Sono diversamente abili. Esattamente. Non tutti, ovviamente, ma... Molti sono come i film d'azione di Nicolas Cage. Se ne escono 3 in un mese, un po' stancano. Sì, peraltro mezzo è carino e gli altri fanno cagare. Appunto, è la stessa roba. Devo essere sincero, parlando di Nicolas Cage, l'unico film forse d'azione che mi è piaciuto su è The Rock, ed è di Michael Bay. Quindi, vabbè, ho preso insulti per questa cosa. Comunque. Perché The Rock è un signor film d'azione. Sì, ma però ultimamente Michael Bay con questi Transformer che... Rispetto ad altre cose che hanno fatto sia Nicolas Cage sia Michael Bay, direi che The Rock... No, ma difatti io continuo a dire che è un filmone, poi io mi sono esaltato un sacco. Beh, io mi sono esaltato per Starship Troopers, quindi vi dico tutto. Bene, allora... Dimmi. Volevo prendere uno spunto che mi è venuto prima mentre parlava Alessandro, sennò poi me lo perdo... che lui ha citato il fatto che questi personaggi sono tutti molto delle icone, no? E ascoltavo proprio oggi un podcast americano dove parlavano sostanzialmente di questo, e dicevano che mentre negli anni 80 c'erano i Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger, cioè gente che all'apice della carriera, dovunque la mettevi, sapevi che bene o male il film avrebbe funzionato, Eddie Murphy per dire, al suo apice. Adesso, in tutti questi film di supereroi, se vai a vedere, ci sono attori... Se non di secondo piano, lo stesso Robert Downey Jr., che è un po' quello diverso dagli altri, perché è comunque un personaggio, prima di fare Iron Man era abbastanza decaduto come fan. È un tossico, più che decaduto. È perché il punto però qua è che la cosa importante è l'icona, cioè puoi anche metterci un cretino dentro la maschera, ma tanto la gente va a vederlo non per la stella che interpreta il personaggio, ma per il personaggio. Ed è, se vogliamo, è un modo comodo di diventare una star, fare Lanterna Verde, per dire. Sì, difatti primo X-Men... ha lanciato Hugh Jackman, anche se comunque gli attori più famosi erano Xavier e Magneto come pedigree da attori di cinema. Lo stesso Tobey Maguire, toltosi la maschera, che ha fatto? Tobey Maguire ha fatto Pleasantville. Sì, poi. Sto scherzando. No, Tobey Maguire effettivamente ha fatto, peraltro anche Spider-Man, a mio avviso il primo è strepitoso, gli altri due potevano anche risparmiarseli. No, a me il secondo è piaciuto da matti. No. Per gli appassionati di fumetti penso che il secondo sia il film più bello, però in effetti... è un po' successo secondo me quello che è successo con gli X-Men. Io ho apprezzato molto di più il secondo film degli X-Men rispetto al primo, perché era molto figo, c'erano molti più personaggi, però sono andato a vederlo con due amici che non conoscevano i fumetti e non ci hanno capito una mazza. Spider-Man era più semplice da seguire perché ovviamente c'erano soltanto un paio di tizi sullo schermo che si menavano, però secondo me piaceva molto più per i riferimenti al fumetto. C'era John Jameson, no? Era quello, c'era... No, John Jameson, no, è il figlio di Jameson, che era... Ah, sì. E queste cose qui, e quindi era... c'erano molte più robe nerd ammiccanti per i lettori del fumetto. Vorrei dire ad Andrea che tra gli nell'elenco di Action Hero prima ha dimenticato Jerry Calà, e questa è anche lui dove lo mettevi faceva cassetta negli anni 80. Sì, The Last Action Hero in realtà è Jerry Calà, non è Schwarzenegger, ovviamente. Invece, dovendo parlare insomma del meglio e del peggio di questi 30 e passa anni di roba che c'è passata al cinema, peraltro io credo che il film dell'Uomo Ragno, quello degli anni, che in realtà erano stati dei film fatti di film TV raccapriccianti, era un telefilm degli anni 70, esattamente, sì. Poi era stato, cioè, avevano zippato due puntate e avevano fatto questo specie di lungometraggio che non uno, hanno fatto due lungometraggi. Io ne ho visto uno. Il pilota, che era tipo L'Uomo Ragno contro il Drago. No, L'Uomo Ragno colpisce ancora. Il secondo, L'Uomo Ragno contro il Drago. Però attenzione, il Drago era un'organizzazione criminale. Ah, ok. Era Fing Fang Fong. Sì. Tra l'altro, con effetti speciali che quando è uscito Superman l'ha devastato, perché veramente è una roba fatta in casa. Cioè, adesso in maniera amatoriale su YouTube c'è roba fatta molto molto meglio di quella Italian Spider-Man. Cioè, una roba veramente imbarazzante. Però appunto io direi, da Superman ad adesso, cos'è che vi è piaciuto di più e cos'è che invece vi ha fatto stracacarone? Io ricordo con grande affetto il punitore degli anni 90 con Dolph Lundgren, lo svedese che faceva l'italo-americano, un gioiellino. Il Vendicatore si chiamava in Italia. Sì, sì, esatto. Ma quello era The Punisher? Era... Sì. Hanno messo della cromatina da scarpe tra i capelli... E girava nelle fogne, c'erano dei piani sequenza meravigliosi, belli in volo. E questo immagino, Andrea, sia uno dei più belli. E quelli più brutti invece? Ma quelli più brutti direi il Cavaliere Oscuro. Ma mi sembra che ne abbiamo abbastanza citati quelli più brutti, cioè togliendo la fascia appunto uber trash sottoproduzione, c'era anche, credo non sia mai stato distribuito ufficialmente, forse Alessandro può correggermi, i Fantastici 4 fatti da Roger Corman. No, ma quello era, non so se si chiamino Ash Movie, qualcosa del genere, cioè una roba fatta giusto per tenere i diritti, ma senza idea di distribuirla. Io l'ho visto ed è veramente qualcosa di vergognoso. Immagino. Cioè è fatto proprio tipo telenovela di rete privata regionale dei primi anni 80, ci sono delle cose tipo Mr. Fantastic si allunga e c'ha un palo al posto del braccio, una scopa Pippo con un guanto alla fine, per fare l'effetto. Veramente, veramente pezzente. Fra l'altro, hai citato Davide, i telefilm dell'Uomo Ragno c'erano stati anche legati al telefilm di Hulk, due film per la TV, Hulk e Daredevil e sì. Hulk e Thor. E mi ricordo che c'era Thor che urlava Odino e si trasformava. Mamma mia, guarda, mi sono perso delle chicche nella mia vita, veramente me ne dispiaccio. Comunque fra i film grossi credo che le due cose che proprio, cioè, che ricordo con particolare fastidio sono il quarto Superman e il quarto Batman di quelli degli anni 90. Batman e Robin è qualcosa di indecente proprio. Io riguardo a Batman devo dire che avevo cercato di uscire con una ragazza ed era il periodo che era uscito Batman Forever, no? Quello con Val Kilmer, e dato che c'era il video degli U2 che faceva la colonna sonora, alla fine lei si è convinta di venire con me ed è stato cioè gli ho rotto le palle per due settimane, no? A metà film la guardo e ho detto andiamo via, ma come? No? È l'unico film che sono uscito dal cinema a metà film e non ho aspettato la fine, veramente, cioè quando Val Kilmer, quando c'era Nicole Kidman che ha detto ah ma lo sai che mi piace, e lui sarà la macchina, ha detto andiamo per favore. Veramente, cioè io non l'ho trovato così pessimo, anzi dirò quasi che mi è piaciuto. Batman Forever. A te è piaciuto anche Hulk di Ang Lee, ti dico solo sì. Quello anche a me non è dispiaciuto. Cosa c'è che non va nella versione di... Cioè, allora, io più che altro di quello lì ho trovato fastidioso quel fatto da... Tranne i pattoncini giganti? Sì, beh, a parte esatto, quello. A me dava fastidio il fatto regista intelligente che... Guarda come sono figo. Dunque, allora, aspetta, devo fare un film sui fumetti? Beh, allora ci metto lo Spitz. Mi sembra evidente, devo fare questo. No, ma scusate, io ho chiesto anche a gente che... ama Hulk e è appassionata del fumetto, ma il padre, ma che cazzo c'entra? Perché? Ah, ma vedi, io partivo a fare fatto schifo come personaggio, quindi. Vabbè, sì, no, che però Hulk, cioè Banner, in una delle 300 versioni di Hulk che abbiamo visto negli ultimi 40 anni, ha avuto dei problemi col padre, quella qui che ricordo. Ma comunque a me non era cacchio, tu non hai letto tutti i fumetti di Hulk? No, che ho ce li ha avuti. Nel ciclo di Peter David si vedeva che il padre era un padre che abusava di lui fisicamente. Sì, ma qua diventa un robot gigante. Vabbè, lì l'hanno mischiato con un altro cattivo dei fumetti. Vabbè, ho capito, però cioè, adesso non è che puoi stare a farmi le menate su quanto è aderente al fumetto, sennò fanno tutti cagare i film dei supereroi. Ma no, non è l'aderenza al fumetto, è che non c'entrava una mazza col resto della storia. Vabbè, per uno che non è appassionato di Hulk, mi sembrava una puttanata, ecco, detto così, in maniera amicale, oserei dire. Io comunque ho trovato molto più brutto l'Hulk successivo. Non l'ho visto quello. Incredibile Hulk. Sì. A me non è dispiaciuto. Almeno Hulk era fatto un po' meglio. Io l'unico film con Edward Norton credo di non aver visto. Quindi... Ma perché poi l'hanno cassato per il film sugli Avengers? E costava troppo, forse. Beh, in realtà Edward Norton ormai non credo costi granché. No, però... Si sono accordati, credo che il motivo sia esattamente questo, che non hanno trovato un accordo o qualcosa del genere. Sì, ma anche perché Norton c'aveva già le balle girate, aveva rotto un sacco di coglioni quando aveva finito di girare Hulk. Ah, oh, ma hanno cambiato, ma hanno tolto le cose, le scene belle. Io vi dico solo che leggevo oggi un articolo su Repubblica, credo, che Norton è oggi al Giffoni Film Festival, dove intervistato diceva, no, però... la fama non è così importante, preferisco scegliere i film, beh, poi magari anche stare fermo 2 o 3 anni non è un problema, eccetera. Sì, ma lui intende preferisci scegliere i film da guardarsi la sera a casa? Sì, esatto. Ha detto anche i Vendicatori saranno un film di merda, gne gne, mi pare. Credo che abbia detto questo e ha irriso dei bambini che non capivano quello che diceva in inglese, credo, al Giffoni Film Festival. Comunque, quindi, Andrea, diciamo che i tuoi migliori, c'è il Cavaliere Oscuro tra i migliori. Sì, sì, è bello, però poi, non è piaciuto come... Perché io il peggiore c'ho la chicca dopo. Dai, dilla. La chicca è Spawn, il peggiore... Porca troia! Il peggiore film di fumetti. Peraltro, io appunto... Ho iniziato a leggere fumetti americani in tarda età e quando ho letto il primo numero di Spawn sono rimasto abbastanza colpito, perché questo tizio che dovrebbe essere il demone della morte, tornato dall'inferno, incazzato con una bestia, vendetta, arriva sulla terra, vede una prostituta che sta per essere picchiata, stuprata, lui interviene, poi c'ha un flash della Madonna della sua vita passata, si risveglia ed è tra le braccia della prostituta con 2 occhioni così, che lei gli dice non ti preoccupare, è tutto finito, minchia, sei tu che dovresti dominare la notte, la morte, le catene, e sei lì che piangi in braccio a una prostituta, ma che personaggio di merda. Davide, è tutto vero, però gli occhioni così era che McFarlane non sapeva disegnare. Questo sono d'accordo. Ecco, ma secondo te, Alessandro, ma com'è possibile che uno così abbia fatto tutti quei miliardi? Io ho scritto ovunque nella mia vita che McFarlane è un cane, non ha mai saputo fare un cazzo. Beh, i soldi li ha saputi fare. Sapeva fare i pupazzetti una volta. Però scusate, non è lo stesso... Sapeva fare i pupazzetti. Poi ha iniziato a sputtanarsi i soldi comprando quelle palle da baseball, quelle dei regoli, che dopo un anno non valevano più una fungia, un'infiocchettatissima fungia, e ha smesso di fare anche quello. Ma non mi è mai piaciuto il modo in cui disegnava le storie o portava avanti i suoi progetti. Non mi è mai piaciuto Spawn proprio in assoluto. Però, come dici spesso sul tuo blog, ha rovinato praticamente, ha dettato un andazzo che poi tutti hanno seguito nel giro di qualche anno. Eh sì, è stato tra i promotori del fenomeno Image, la rivoluzione che ha rotto i coglioni in tutta la prima metà degli anni 90 al fumetto americano, con le copertine speciali e tutte quelle robe lì, la speculazione. Grazie McFarlane, se ci hai distrutto l'hobby dei fumetti, ti siamo molto grati, sei un amico. Però si è inventato la ragnatela spaghettosa, Però si è inventato la ragnatela spaghettosa, che a me non è manco mai piaciuto, cioè non è mai piaciuto niente. Cioè, però ha inventato gli occhioni giganti, sai, con la maschera dell'uomo ragno, no, non mi piacciono. Però ha inventato però metteva Felix sulle mutande di Peter. Non mi piace. Ottimo. Però fa Reckoning, il gioco di ruolo. Sì, sì, però fai così. Hanno fatto pure dei giochi di Spawn, sai, quello per Dreamcast, mi faceva cagare. Ah, ok. Però anche per PS2 era peggio di quello di prima. Ah, Diciamo che se tutti i compratori di fumetti fossero come te, sarebbe morto di fame dopo 10 minuti. Era quello che si meritava. Sì, era tipo, ma scusate, è lo stesso effetto Rob Liefeld, è un cane a disegnare, introduce un stile... No. Scusami Paolo, perché Liefeld è l'unica persona che è riuscita a mettere il cofano di una Buick al posto del petto di Capitan America in un fumetto. Come tale merita il rispetto da cui appassionati. Io ho scritto un post che vi consiglio di andare a vedere sul mio blog su tutte le storpiature anatomiche di Rob Liefeld, e ce ne sono alcune veramente veramente fantastiche. L'ho letto. Ma poi lui almeno è caduto in disgrazia. Uno che riesce a farsi pagare disegnando in quel modo, secondo me è una persona degna della massima stima. O aveva rapito la figlia del suo editore e la teneva sotto la minaccia di un'arma da fuoco, oppure non si spiega come abbiano potuto permettergli di andare avanti, come questo tizio gli sia fatto dei fan, perché c'è gente in giro che considera Liefeld un grande. Ah, poi a me la cosa che fa impazzire di sua sono le espressioni, sembra che abbiano tutti le emorroidi. ma non è che sembra, visto che gli disegna il bacino stretto stretto, quello... Beh, tra l'altro poi insomma i supereroi una vita a farsi prendere a calci in culo da gente più forte di loro. Quindi il mio peggiore è Spawn, e sicuramente fino adesso quello che mi ha gasato di più è stato il Cavaliere Oscuro e il primo X-Men, diciamo, sì. E anche il primo Spider-Man comunque mi ha fatto godere parecchio. Parecchio, peraltro, il primo Spider-Man, se non ricordo male, era uscito proprio in questo periodo, in piena estate, e comunque c'era il cinema pieno, e questa è una dimostrazione che comunque se fai un film che tira, in Italia anche d'estate la gente va al cinema, che sono tutti in ferie, oltretutto in sto periodo. Comunque vorrei citare, dato che ho davanti i commenti sul film degli X-Men First Class, vorrei citare alcuni, almeno uno in particolare mi ha fatto ridere, che dice: fantastico film con raro gusto estetico ed interessanti intrecci con la fantapolitica. Tutto avrei potuto pensare di commentare X-Men First Class, ma non questo comunque. Sono i missili di Cuba. Sì, ho capito. Però... però il fattore estetico non è sottovalutare, perché se ci pensi bene, finalmente gli hanno dato le tutine gialle. Se te guardi, quant'è, 10 anni fa il primo X-Men? Si erano però intraviste negli altri X-Men, Certo. Il primo X-Men assolutamente no. Aspetta, no. Sai, erano tutti neri, emo, tutti fighi col giubbotto nel di pelle. Nel primo X-Men facevano una battuta sulle tutte gialle. Nel terzo la bestia si mette la tutina gialla che non gli sta più, no, perché... Il terzo me lo sono dimenticato perché... Lo so, però c'è questa cosa. Non citiamolo, per favore, il terzo, perché è proprio... Cioè, è indigesto. Vorrei ricordare che nel primo c'è Wolverine che dice: ma voi veramente vi vestite così con sommo sprezzo? E qualcun altro gli risponde: perché la preferiresti gialla alla tuta? Quindi... Sì, però voi che l'avete visto, sfigurano le tutine gialle, sì o no? Ma non sono proprio gialle, non sono proprio quelle dei fumetti, le tutine, sono... Hanno degli inserti, degli elementi, quella di Banshee forse, siccome c'è il mantello giallo e nero a cerchi concentrici, è la più simile, ma bene o male sono una versione... Sono anonime, diciamo. Hanno sempre quel taglio ganzo un po' Matrix. Sì, un po' militare, un po'. Sì, beh, comunque il primo X-Men a me aveva stupito anche perché poteva uscire una puttanata della Madonna, e invece comunque hanno fatto una cosa coerente, Bryan Singer ha fatto una cosa coerente, con un'estetica precisa che non sembrava pacchiana, ecco, il rischio di finire... Non so se l'ha scritto Bryan Singer, il primo X-Men, però Bryan Singer è uno che ha una certa esperienza in fare un film con diversi personaggi farli bene, perché prende i soliti sospetti, che è un film che, l'ho detto in tutte le puntate che sono stato qui, credo sia cinematograficamente perfetto, ma è un tipo che comunque sa gestire un gruppo di personaggi diversi e sa caratterizzarli o comunque dargli i giusti spazi. Io, a differenza di Alessandro, sinceramente il secondo già mi è piaciuto un po' di meno, perché secondo me c'erano troppi personaggi anche per Singer. Singer è già uno bravo. Singer, quando usa pochi personaggi, fa cagare invece i suoi film. Tipo Superman. Beh, ma anche quello che aveva fatto dopo dopo i soliti sospetti, quello tratto dal racconto di Stephen King, oddio, non mi ricordo. Era suo. L'allievo. Ah, non era malvaggio. Ah, vabbè, sì, in effetti non era malvaggio, però mi piaceva dire questa stronzata. Però per farvi rendere conto, se poi andate a vedervi, purtroppo, il terzo X-Men, che ci sono ancora più personaggi con il regista che è un producer, no? Era il producer il regista del terzo, non mi sbaglio. No, è proprio un regista di minchiate, non è che è un producer. ne ha dirette parecchie di minchiate, t'assicuro. Ma chi era? Detner. Esatto, non è un producer. È uno che passava di lì e gli hanno affidato, cioè, se ne erano andati tutti. Perché doveva farlo quello che poi ha diretto adesso il nuovo X-Men. Sì, doveva farlo Singer, doveva farlo un sacco di gente, poi tutti se ne sono andati dicendo vaffanculo, ve lo fate da soli, e hanno trovato questo che vendeva i panini. Ma ah, sai, mettiamo, c'è uno vestito da angelo che sembra un coglione, ah bello, poi c'è Fenice, e ha fatto il film. E ha avuto talmente tanto successo che sia questo che Wolverine, X-Men di origini Wolverine, non sono stati proprio cagati o presi in considerazione da quelli che hanno fatto X-Men all'inizio. Che... Ma guarda che non è vero, invece, il terzo l'hanno cagato. Ma insomma, perché c'è il fatto di... forse il terzo sì, ma... Wolverine no. No, perché c'era Emma che appariva, insomma... bambina o qualcosa del genere. Ma poi in Wolverine si vede Xavier pelato in piedi. Esatto. No, però il terzo l'hanno preso in considerazione anche perché leggevo che l'attore che fa la bestia da giovane ha cercato di rifare un po' l'accento di quello del terzo, robe del genere. E sono problemi, Sono tanti. Sì, anche. Belli grossi, oserei dire. Ma cos'è una finanziaria rispetto a questa roba qua? No, infatti. Comunque, scusate, Brett Ratner ha fatto Rush Hour, The Family Man, Rush Hour 2, Red Dragon, Rush Hour 3. Beh, Family Man a me non era dispiaciuto, visto che c'è anche Nicolas Cage. C'era un casino di traffico, io ce ne sono venuto. Se lo facevano a Cosenza potevano andare avanti fino al quinto, perché poi le strade sono piccole, quindi... Invece no, allora, eravamo... Paolo, avevi già detto i tuoi preferiti, no? Io ho preferito sicuramente Batman Returns, a mani basse proprio, un film, film di Tim Burton. Ma Tim... sì? Come quello no? Col pinguino? Eh sì, come quello col pinguino, scusate. È tutto quello con Catwoman. Esatto, cioè, chi è il coglione che ha detto quello col pinguino? Io valuterei questa frase, perché sono quelle cose che poi ti rimangono a vita. No, è che a me non me l'ha fatto impazzire e lo identifico col pinguino. A 200 uomini che l'hanno visto, 199 ti dicono quello con Catwoman, è l'unico che dice... Pinguino sei tu, scusami, Davide. Io guarda, accetto la critica. Io però... me ne vado di fronte a questa cosa. Quasi. Però il fatto che non io lo cioè proprio la cosa che non mi è piaciuta di quello era il pinguino, allora non riesco a cioè sì, è ovvio che c'è Michelle Pfeiffer in quel film, però secondo me in quel film potevano anche non metterci Batman. All'uscita dal cinema nessuno avrebbe detto niente. Ma perché... quello vale per quasi tutti i film di Batman comunque. Io andai a vederlo con delle amiche, erano tipo due ragazze, due amiche, e mi ricordo che una disse, del liceo, una disse, se fossi stata un uomo l'avrei trovata la donna più arrapante del mondo. Quando te lo dice una donna, una cosa del genere, all'uscita di un film, capisci che evidentemente avevano azzeccato la caratura sexy, diciamo, del personaggio. O devi andare a letto con la tua amica perché ha tendenze lesbo... che bisogna coltivare, insomma. Oppure. Sai. Perché ricordiamo, come ci insegna Gigi, che una persona lesbica è una persona che ancora non ha trovato l'uomo giusto. Molto bene. Comunque, Batman Returns, non me l'aspettavo questo. No, sicuramente, ma proprio a mani basse. Poi magari ci sono Spider-Man 2, che a livello di sceneggiatura, secondo me, è fenomenale. Anche il primo Spider-Man era male, però il primo Spider-Man, per esempio, ha avuto problemi col design di Green Goblin. Anche con l'11 settembre, visto che gli hanno segato un pezzo di film dopo che hanno tirato anche un pezzo di palazzo, tra l'altro. Sì, tra c'era... l'altro, io sono uno di quegli stolti che alla fine del secondo mi ha detto cazzo, non vedo nulla che guadagno così tanti soldi da poter vedere Venom a schermo. Non l'ho avessi mai desiderato. Avresti davvero mai desiderato, pezzo di stronzo. No, comunque migliore Batman Returns proprio sicuramente, e il peggiore forse Batman e Robin, perché ma lì mi dispiace anche perché Schumacher non è un regista così malvagio e purtroppo adesso è è rimasto però segnato. Ha fatto un sacco di cagate, No, ha fatto anche film belli, ha fatto un sacco di cagate. Ha fatto sì, Linea Mortale. Ma sì, qual è? Cos'è in inglese Linea Mortale? Quello della Capitanica. Flatliners, no. Perché Phone Booth, per esempio, è un grandissimo carino anche quello. Comunque, tornando a Batman e Robin, si vede che lì, poverino, l'hanno chiuso in uno stanzino, sono arrivati gli sponsor, l'hanno picchiato e sono andato in sala dell'editing e hanno messo tutti i shot in cui si vedeva McDonald's tutte queste cose qui e lui ha avuto pochissima voce in capitolo. Ma hanno costretto anche a mettere i capezzoli sui costumi. Esatto. È storia questa. Mamma mia. E quindi allora, mi dispiace per lui, perché tutte le vagonate di letame che vengono progettate contro il film, ovviamente lui è il regista, capitano della barca, se le prende tutte in faccia. Però ce le avrà delle colpe, dai, su. No, ma sicuramente non è il miglior regista al mondo, e però per esempio a me Batman Forever mi è piaciuto, era un po' camp, era un po', però cioè, cos'era, scusa? Era un po' camp, l'italiano mi fallisce, era un po' allegro. Ah, lo chiamate così voi, è un film di merda, ok. Comunque, a sentirvi recitare, mi sono reso conto, visto che io ho detto solo quelli che mi hanno fatto cagare, che a me tende a piacere il secondo episodio quando è fatto dallo stesso regista, perché Batman Returns, X-Men 2, Spider-Man 2 mi sono tutti e tre piaciuti molto, e più del rispettivo primo. Ma perché si possono risparmiare tutta quella pallosissima fase delle origini? Sì. Tipo io. E poi secondo me c'è anche il fatto che, avendo avuto successo il primo, sono anche un po' più liberi di fare quello che gli pare. Sì. In X-Men la fase delle origini, nell'ultimo X-Men la fase delle origini, per esempio, secondo me era fatta molto bene. Cioè anche per i minchietti, là, i giovani allievi, era abbastanza scorrevole, cioè era una palla mostruosa. Sì, però c'è il cameo. Sì, il cameo è carino. I due camei. È vero. Però su quello al bar, nel cinema, è venuta giù la sala. Con tutto allora, anche sul finale è venuta giù la sala, sul finale la monetina, diciamo. Ah, no, sì. Sì. Sono i due momenti da... Sì, effettivamente. Allora, Paolo, sì, invece i più brutti, quelli sempre Batman, ok. Alessandro, sì, poi ci sono Catwoman, ci sono... Vabbè, ma quelli, oddio, cioè, sono tanti. Elektra, diciamo. Elektra è abbastanza, sì, abbastanza anonimo. Sono schifo impresentabile. Catwoman era di Pitoff, se non sbaglio, no? Quel regista francese che aveva fatto Vidocq, come si chiamava quell'altro film? Pidocchio. Sì, una roba, è stato costretto a svuotare il terreno con un cucchiaino bucato come punizione, credo. Per il film, che aveva fatto una cosa veramente terrificante. Però tocca a me, Sì, vai. Ci sono film peggiori, perché sia Catwoman che Elektra, per esempio, per citare un'altra bella merda, sono film veramente vergognosi, però almeno c'hanno due protagoniste molto gnocche. Secondo me ci sono stati film infinitamente peggiori, anche senza citare quelli un po' strani, tipo, che ne so, il film di Jonah Hex, che non è ovviamente supereroistico, ma è sempre una roba della DC Comics. Il film veramente più zingaro di tutti, secondo me, è il Capitan America del 1990. Oh, signore. Allora, anche di questo ho fatto più che una recensione, un lungo fotoromanzo con una cinquantina di catture, ed è un film meraviglioso nella sua pezzentaggine, perché prende gli elementi classici di Capitan America, no? C'è il ragazzino magrolino che vuole fare il soldato, non c'ha il fisico, gli fanno il siero dopante, diventa un bestione e combatte contro i nazisti guidati da Teschio Rosso, ok? Questo è Capitan America. Anche il nuovo Capitan America, quello che esce in venerdì prossimo, il primo Vendicatore del First Avenger, si basa su questa trama. Il Capitan America del 1990 invece no, perché c'è un Capitan America che è già un bestione gigantesco, però è un po' zoppo, fa vedere che cammina un po' storto, che subisce questo siero e deve combattere contro un Teschio Rosso che è italiano, abita tipo vicino al lago di Como, su un'isola, non so come si chiama, e ha come figlia Francesca Neri, cioè Francesca Neri che fa la figlia del Teschio. Tutti gli attori che dovrebbero parlare in italiano in realtà sono comparse nel New Jersey, che parlano un qualche dialetto estinto in Italia da 200 anni, ed è pieno di gag meravigliose. Ci sta il capo degli italiani, insomma, di questi fascisti, che è il Galeazzo Musolesi, il Führer Alleaten delle Sturmtruppe. Ci sono delle cose veramente meravigliose. Siccome in questi giorni, per lucrarci sopra un po' di soldi, non so se fosse una roba Fox o a chi fossero finiti in mano questi diritti, lo sta facendo riuscire in DVD, no, per zanzarsi a UFO un po' di notorietà del nuovo film. Quindi se lo trovate, riuscite a scaricarvelo, vi consiglio di guardarvelo, perché è veramente veramente la merda, come le versioni povere dei cartoni animati della Disney, quelle che trovi nei cestoni. Più che altro sarebbe interessante sapere se il risultato finale sarà meglio o peggio della probabile versione Asylum di Captain America, che sicuramente ce la ripropirano. E la versione Asylum di Capitan America non lo so, perché sai, l'hanno fatta per Thor, perché lì è un personaggio mitologico ed era una cosa veramente brutta, però questo qui era, per dirne una, Capitan America sul cappuccio ha delle orecchie di gomma, cioè non ha i buchi per le orecchie, ha un cappuccio integrale su cui hanno appiccicato delle orecchie di gomma. Questa potrebbe sembrare la cosa più brutta del film, in realtà è una di quelle che si notano di meno, tanto è pessimo tutto il contorno. Comunque, questo per quanto riguarda i film più brutti, poi ce ne sono stati altri, come dicevo c'è stato quel periodo a metà anni zero, a anni 2000, come si chiamano loro, insomma 10 anni fa, tipo Elektra, i film del Punitore che erano terrificanti, quelli dei Fantastici 4, e come film belli invece a me è piaciuto ovviamente molto Watchmen, non vi sto a spiegare il perché, con tutte le sue pecche comunque mi è piaciuto molto, e mi è piaciuto molto l'ultimo film di X-Men, come ho detto prima. Ho letto tipo ieri o l'altro ieri una recensione di Andrea sul suo blog che mi trova sostanzialmente d'accordo una volta tanto, e quindi non gli ho scritto sei un coglione, non hai capito un cazzo, come faccio di solito quando leggo delle sue recensioni. Sì, che tra l'altro però lo scrivi sul tuo blog invece che commentare sul mio. Ma perché siccome sul tuo non ti legge nessuno, allora se scrivo sei un coglione non ti faccio abbastanza danno. E il problema è che io non leggo il tuo, e quindi però lo leggo con altre 10.000 persone che dicono quel job è più un coglione. Però comunque magari per curiosità vengono a vedere. Sì, dai, sì, vengono a vedere. Vediamo chi è sto coglione. Esatto, se, beh, fa comunque piacere. Insomma. Sempre pubblicità, positiva, negativa, è sempre pubblicità. Sì. E poi i film di Batman, però appoggio la mozione del cieco, perché anche a me sono piaciuti molto i film di Tim Burton. Non ho nulla in contrario nello specifico con i film nuovi, con Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro, però c'avevano questa cosa che le parti in cui c'era Batman, il tizio vestito di gomma, secondo me stonavano con il resto del film. C'era una figata come film d'azione, faceva, il secondo era terribilmente un film James Bond su una scala da zero a James Bond, però le parti in cui c'era Batman mi sapevano di strano, e che una cosa che mi porto dietro da quando ho iniziato a vedere 10 anni fa questi film di nuova generazione di supereroi, cioè è difficile convincere, cioè far funzionare la sospensione dell'incredulità quando hai dei tizi in costume che si menano, ed è una cosa che ho trovato in buona parte dei film, cioè anche in Spider-Man, come diceva penso Paolo prima, c'era Green Goblin che era terrificante, c'è questo Willem Dafoe con la maschera pupazzo di plastica, eccetera. Anche i film di Batman mi hanno fatto questo effetto, stranamente per un qualche motivo, forse perché avevano il volto scoperto, non me l'hanno fatto gli X-Men dell'ultimo film, che ripeto è un gran bel film. Questa cosa io l'ho patita tantissimo col Cavaliere Oscuro, che cioè ogni tanto usciva fuori sto coglione col cappuccio sì. In un film in cui non c'entrava nulla, tra l'altro nella voce in italiano parlava sono Batman, con lo sforzo di palle spaziali, quindi era un po' no, io più che nelle scene d'azione proprio quando parla, perché tutto sommato quando c'è la Batmobile che insegue il camion ma perché non si vede lui, cioè dentro sì, effettivamente c'è ragione. Il problema è Batman. Sono andato a vederlo con mia moglie, che notoriamente odia questo genere di film, e ha detto sì, è un bel film d'azione, sembra James Bond, e se ci pensi c'è la scena dell'Aliante quando si buttava nel secondo film da un grattacielo all'altro, era tutto molto James Bond. Tra l'altro non mi piaceva nemmeno molto il costume, forse anche per questo, non lo so, comunque. Sì, quello del secondo è abbastanza, insomma, opinabile. Comunque, visto che c'è stato Watchmen... Scusa, sto per dire una cosa che probabilmente molti mi daranno del coglione, avendo anche ragione, ma... proprio mi è venuto in mente adesso, pensandoci, che ho l'impressione che i film di Christopher Nolan a me piacciono molto di più i trailer che il film. Perché mi è successa la stessa cosa sia col Cavaliere Oscuro sia con l'ultimo Inception. Io mi sloggo da questo podcast. Mi sloggo. No, ma mi piacciono, però non riescono a gasarmi come mi gasa il trailer guardando poi il film. Non riesco a contemplare uno a cui non è piaciuto Inception, quindi me ne sto zitto. Ma infatti ho appena detto mi piacciono, forse ti è sfuggito. Posso dire una cosa su Inception, anche se non c'entra con il tema di questo podcast? Certo. Più o meno ho vissuto lo stesso problema, perché non sono andato a vederlo al cinema perché non ho trovato nessuno che se lo volesse venire a vedere, convinti tutti che fosse un film cervellotico, tipo Memento, una roba che non si capiva, invece non c'era una mazza da capire. L'ho preso in DVD appena uscito. Allora, la cosa strana è che ho comprato il Blu-ray tipo a 19€ e mi hanno regalato il DVD, la versione in DVX, la versione scaricabile, e veniva pure uno dalla Warner a spiegarmelo a casa se non capivo. E l'ho visto, è un bel film. non ho visto questo capolavoro dell'innovazione di cui molti mi parlavano, cioè questa roba completamente diversa da tutto il mondo. Ora la fantascienza cambia, dimentica tutto quello che hai visto fino ad oggi, perché c'è un pre-inception e un post-inception. Ma è quello il trucco, se tu dimentichi tutto quello che hai visto fino ad oggi, effettivamente non puoi paragonarlo. Un bel film, è un bel film. Ma secondo me l'idea di queste serie di scatole cinesi dei sogni è carina, cioè comunque è girato bene, a me fino alle fino alle prime 7-8 scatole cinesi. C'era la parte finale, quella del substrato delle scatole cinesi dove la città è in rovina, era un po' tirata secondo me, però era un po' tirata. Comunque ne abbiamo parlato in abbondanza. Sì. No, invece, visto che prima hai citato Watchmen, che effettivamente lo metto, cioè è uno tra i miei preferiti, ma è talmente particolare sia il fumetto soprattutto, che effettivamente lo metto a un rango diverso. Tra l'altro è uno di quelli in cui ci sono i tizi vestiti proprio da coglioni con le tutine colorate. Vabbè, sì, quello è il concetto alla base di Watch. Però ma difatti ne lamentavamo la mancanza e lì ci sono e funzionano. Ma lì funziona ci sono e devono sembrare dei coglioni. Cioè Watchmen nasce per farti capire che se Superman fosse stato all'inizio veramente Superman non ci sarebbero state più le guerre, che se Batman fosse stato un panzone con l'impotenza aveva voglia di farsi il figo con i veicoli a forma di pipistrello e di cosa, no? Con la battuta e la battipistola. Quindi il concetto è quello, cioè dovevano sembrare dei coglioni e ci riuscivano perfettamente. Ma secondo te, Alessandro, perché Alan Moore è così, odia così tanto le trasposizioni cinematografiche dei suoi lavori, cioè che tutte le volte vuole scatenare una jihad contro quelli che gli fanno il film? Ti rispondo con un aneddoto molto sapido di una decina d'anni fa, allorquando collaboravo a una rivista, una fanzine, a una quindicina di anni fa, di quando le fanzine ancora si facevano ciclostilate, insomma parliamo del tardo paleozoico. Conobbi un ragazzo che era andato alla ricerca di Alan Moore per intervistarlo, lo aveva trovato lì a Northampton dove vive lui, e parliamo di un Alan Moore che ancora non si era dedicato alla magia nera, a queste cose meravigliose alle quali si dedica, non sto scherzando davvero, cioè, lo so. Di essere un mago da una decina d'anni, quindi parliamo di un periodo antecedente, quando ancora diciamo campava, era sul biglietto da visita ci aveva scritto autore di fumetti e non stregone supremo di Northampton, e gli dissi poi, ah figo, ma com'è, insomma, di persona Alan Moore grandissimo eccetera, lui mi disse: guarda, non ho ancora capito se è un genio assoluto o il peggior pazzo che abbia mai conosciuto in vita mia. E lui è un po' tutte e due le cose, cioè un genio assoluto, però è una persona che rifiuta totalmente un certo tipo di sfruttamento delle opere. Aveva il dente avvelenato con la DC Comics da una vita per questioni di diritti legati a Watchmen e a opere sue precedenti. Si è rifiutato da allora di lavorare per la DC, e anche se alla fine l'ha fatto, perché ha lavorato per la Wildstorm prendendo i soldi poi alla fine della DC, non ha mai voluto avere nulla a che fare con alcuna opera tratta dai suoi fumetti. Non solo, ha chiesto esplicitamente che non venisse indicato il suo nome tra i titoli di alcune opere, l'ha fatto levare appositamente da V for Vendetta, chiedendo, non vorrei dire una cazzata, ma mi pare fosse proprio questo il caso, insomma, chiedendo che venisse rimosso. Quindi è una persona che, dicendo di sì, per un semplice sì, avrebbe potuto incassare milioni e milioni di dollari senza fare un cazzo. Per i suoi principi ha deciso di dire di no, e lascia agli altri decidere se questo è genio o è pazzia. Io propenderei per la prima ipotesi, cioè secondo me è una persona che effettivamente crede in una serie di valori e li considera più importanti di valigette piene di fantastilioni di paper dollari. Quello lo posso capire, però capirei anche se i film che sono stati tratti dai suoi lavori, a parte From Hell, che non c'entra una minchia, però tipo V for Vendetta e Watchmen, comunque però, no, aspetta, te ne dimentichi uno fondamentale. Il vostro offender della situazione è The League of Extraordinary Gentlemen. Arca boia, me lo dimenticavo. Che è venuto fuori una cagata colossale. E cioè, tanto di cappello Alan Moore per non aver preso la doppietta o la magia nera. La magia nera, vedi, tramutati in koala. È inguardabile quel film. Tra l'altro sbaglio, il film che ha mandato in pensione Sean Connery. Ma sì, poi, e ci credo. C'era un rumor che è successo, Sean Connery si sia picchiato con... con il regista. Va bene, effettivamente quello è uscito male. Siamo d'accordo. Quello è uscito davvero malissimo. Però anche V for Vendetta, secondo me. Cioè, nel senso che comunque se lo guardi come film, V for Vendetta è anche un film piacevole, non bellissimo. A me non è piaciuto tantissimo, però comunque è un film piacevole, ce ne sono molti di più brutti. Però secondo me non ha colto proprio per niente il concetto principale alla base del fumetto. Cioè, ha travisato completamente il film, quello che era il concetto alla base. Il personaggio non era quello. Non era la stessa cosa, quindi lì capisco una dissociazione. È più difficile spiegarsela per Watchmen, perché per Watchmen Zack Snyder ha fatto quello che aveva, molto di più di quello che aveva fatto per 300, sapendo di non essere all'altezza assolutamente di reimpastare la roba di Alan Moore. Si è attenuto non solo a buona parte dei dialoghi, ma anche ha scelto le inquadrature uguali, cioè sono uguali, un lavoro che avrei potuto fare pure io, insomma, con un cameraman decente dietro. E dove si è allontanato dal fumetto, quindi quelle due o tre cose che, al di là del mostro finale che lì ci sta pure, ma tipo la scazzottata con Ozymandias spezzente alla fine, o quella scena in cui Rorschach, invece di lasciar bruciare il maniaco, lo taglia a pezzi con l'ascia, le uniche cose che ci ha messo, quando ci ha messo del suo, ne è uscita fuori una merda. E il resto del film, quando si è attenuto fin nei minimi dettagli, cioè i tipi di bar sullo sfondo, il cartello quando il gufo va a trovare il suo mentore, insomma tutte queste cose qui, lì chi ha amato il fumetto lo ha apprezzato, perché comunque si è attenuto alla lettera del fumetto. C'è anche chi diceva che, molti appassionati hanno detto che era talmente complessa l'opera di Moore che era meglio non fare mai un film tratto da questo fumetto, perché non era possibile condensare comunque in una pellicola tutta la complessità di Watchmen. Io invece sono contento che il film l'abbiano fatto, perché nel complesso mi è piaciuto. È bello. Io mi sono comprato pure la versione a 4 ore e mezza con gli inserti del Black Fraser, però c'è anche da dire che Dave Gibson, l'artista, era comunque era lì comunque a supervisionare lui stesso l'opera. Sì. Ah, sì, ma perché a Dave Gibbons, scusami, non gliene è mai fregato niente. Ha fatto l'espansione del gioco di ruolo della DC Comics negli anni 80 con i personaggi di Watchmen, ha disegnato roba nuova. Alan Moore rispose: potete scordare, ficcatelo nel culo. C'è un pupazzetto voodoo. Eleganza tipica, esatto. Quindi, sì. Comunque credo che ad oggi lui non l'abbia visto il film. No, ma io ci credo. Quando lui dice che non li va a vedere i film perché si incazzerebbe troppo e lancerebbe qualche sortileggio tramutando tutti gli spettatori in Cumba. Ci credo. Ma è lui che aveva risollevato le sorti di Swamp Thing? O dico una stronzata? Sì, gli fu affidato un ciclo di Swamp Thing, una delle prime cose che ha fatto per la DC Comics, credo. Personaggio le storie famose di Superman, il Superman del futuro, eccetera. Tra l'altro, non ha creato lui John Constantine dentro quel ciclo di Swamp Thing? O ricordo male? Sì. Sì, ecco, un altro personaggio finito al cinema proprio alla cazzo, John Constantine, che io ho letto praticamente tutto il Blazer, e quando ho visto il trailer del film ho detto: mio Dio, ci uccidiamo Keanu Reeves. Però c'è Rachel Weisz. Mamma mia, che merda, mamma. Non l'ho visto, Constantine. Ma allora, io devo dire che non c'entra un cazzo col fumetto, al di là del fatto che si ispira a un ciclo preciso, però poi stravolge un sacco di cose. Si ispira al ciclo quello... una parte di quella scritta da Garth Ennis, però preso per i fatti suoi a me non è dispiaciuto il film. Sì, preso per i fatti, cioè immagino che sia un film con l'americanata solita, divertente, piacevole, però cioè il personaggio di Constantine veramente uno dei migliori caratterizzati dei film. Sì. Ma ti dico, preso nell'ottica, vabbè, non è fedele, riprende anche un po' qualche tratto, tipo il fatto, non so, lui che fa il dito medio al diavolo, roba del genere. Sì, capito. Però gli americani devono smettere di prendere la roba europea e americanizzarla, perché sennò gli americani non vanno a vedere un cazzo. basta, per Dio. Cioè, vorrei ricordare che in quella merda della Lega degli Uomini Straordinari, che oltretutto in italiano non hanno messo Lega... Era la leggenda, no? Esatto, per non rompere i coglioni una parte politica, figuriamoci. forse Uomini Straordinari. Erano i radicali, poi là. Ovviamente. Hanno messo il... cos'è? Tom Sawyer. Chi cazzo c'è di americano nel film? Sì, Tom Sawyer. Ecco, solo perché se no gli americani non avevano... Oh, ma non c'è neanche un americano tra gli eroi, che palle. Cioè, poi è venuto il film orribile che è venuto. Però addirittura sono arrivati a pensare a una cosa del genere. Un popolo veramente drammatico sotto questo punto di vista. Non ho visto, io essendomi letto tutti i 200 e passa numeri, quasi tutti, non ho avuto il coraggio di vedere Dylan Dog, e non lo vedrò mai, perché comunque il personaggio mi piace nei fumetti, ci sono affezionato da quando ero piccolo, quindi, però mio Dio, anche lì mi sa che hanno fatto una roba tipo, non lo so, una via di mezzo tra Twilight e Blade e qualche altra puttanata. Comunque, no, Blade, però... non ho visto Dylan Dog, però mi chiedo, tu continui a leggerlo Dylan Dog? No, è un annetto che non lo leggo. Ah. Beh, però allora secondo me hai fatto in tempo a leggere storie che sono brutte tanto quanto. Sì. Beh, ma i fumetti da Bonelli sono, cioè, non avendo mai una fine, è ovvio che dopo i primi 100 numeri la qualità si abbassa, cioè ho notato, adesso credo sia arrivato 270, non mi ricordo, comunque credo che dopo il 150esimo la qualità è proprio crollata miseramente. Anche un po' prima. No, i primi 100 devo dire che la qualità era molto alta, i primi 100 sicuramente, poi è calata, ogni tanto torna su quando c'è qualche disegnatore bravo tipo Roy, comunque sono anche storie belle, e poi la maggior parte effettivamente, nell'ultima parte in cui l'ho letto era veramente palloso, era proprio più prendere il fumettino da leggerti sul chess e basta. Senza... Beh, comunque cosa di grande dignità. Sì, ma adesso c'ho l'iPad, quindi non lo fanno, La roba Bonelli non esce su iPad, drammatica questa cosa. Bene, quindi Alessandro, tu voti Watchmen come top della tua lista. Scusami, allora, ma il tono della discussione si era fatto talmente nerd che nel frattempo stavo guardando Inter Trentino su Sky Sport. Dicevi, scusa? No, dicevo che alla fine, dato che eravamo partiti con i migliori e i peggiori, alla fine tu voti. Sì, Watchmen. Perfetto. Allora, dopo. No, migliore in assoluto Watchmen non lo so, forse no. Migliore in assoluto credo il primo Batman, cioè come impatto, come è il primo Batman di Tim Burton. Primo Batman concordo che mi era piaciuto molto. Devo dire che a me The Dark Knight è piaciuto tantissimo perché è un film che in realtà non è un film su un fumetto, ma è mezzo film di mafia, come dicevi tu, mezzo film alla James Bond. Insomma, è talmente fatto bene che forse è talmente poco fumettoso da un certo punto di vista che è quello che preferisco di più, perché è poco pacchiano. Insomma, comunque Tim Burton è bello, quello di Tim Burton il primo era bello, però c'aveva delle cose molto anni 80 ancora che... Secondo me è invecchiato malissimo. È invecchiato effettivamente malissimo, però per l'epoca uscivamo dal Batman dei telefilm con l'onomatope a pieno schermo. Esce il Batman di Tim Burton, cioè come impatto, dicevo allora, visto al cinema era qualcosa e di... E poi con un Jack Nicholson con i controcazzi alla fine, la verità. Insomma. Ecco, dato che hai citato il telefilm di Batman, allora... sul tuo blog, che ricordiamo il link che non l'hai detto prima. Vabbè, ma non c'è bisogno, dai, lo sanno tutti. È docmanhattan.blogspot.com. Esatto, hai pubblicato un post su una versione porno, diciamo, di una parodia pornografica della serie TV degli anni 60 di Batman. Ora, io volevo chiederti due cose. Primo, ma tu te lo sei visto veramente tutto quel film? Non ho visto le parti porno. Sì. Scusa, finisci le domande. No, e la seconda è, ma tu quando fai post del genere dove metti gli screenshot del... o anche quando fai le scansioni dei fumetti, eccetera, quanto ci metti a fare un post del genere lungo così? Perché quello era veramente lungo, insomma. Beh, quando si tratta di un post di un film che sto vedendo, ci metto il tempo del film che sto vedendo. Premo un tasto per fare le catture delle schermate mentre le vedo, se mi sembrano interessanti, così come vengono, e alla fine faccio una selezione, le butto lì e ci scrivo una didascalia per ognuno. È più o meno lo stesso metodo che utilizzo quando faccio le scansioni di qualcosa. Faccio le scansioni quando ho un po' di tempo, cioè un pomeriggio, un sabato pomeriggio alle 3 che non c'è un cazzo da fare, oppure invece di svegliarmi alle 5 mi sveglio presto, mi sveglio alle 4:30. Perché le 5 è tardi effettivamente. Sì. La gente che non ha un cazzo da fare dorme molto, scusami Davide. No, ma io mi sveglio alle 6, quindi solo perché mi sveglia mio figlio. Perché ti svegli col comodo alle 6, quindi non puoi capire, ma mi sveglio presto, ci butto una mezz'ora di scansioni, le tengo lì, quando mi viene in mente di fare il post poi lo faccio. Tornando alle zozzo parodie, che adesso vanno fortissimo e che sono un sottofilone del sottofilone. Cioè, quella mi sembrava una zozzo parodia fatta anche con i soldi, oltretutto, come costume, sì, come tutto. Ce ne sono tantissime, perché hanno annunciato siccome in America c'è questa cosa meravigliosa e tu puoi fare la parodia di qualsiasi cosa, basta che in copertina o comunque sulla fronte della Marese, un DVD, ci scrivi a chiare lettere che si tratta di una parodia, la legge ti tutela, e quindi fin tanto che non usi il marchio, quindi non scrivi Batman con la fonte di Batman, ma scrivi Bartman un po' più storto, fare quello che vuoi, nessuno ti viene a dire niente. Alla luce di questo, stanno facendo zozzo parodie di qualsiasi cosa. Sono uscite di Wonder Woman, di Superman, della Justice League, di Batman, dei Simpson, eccetera. Io ne ho viste un paio e sono veramente brutte, cioè fatte all'acqua di rose, senza una storia. Fa un po' ridere quando si parla di film porno, ma cioè nel senso che comunque c'è Green Lantern e Wonder Woman che dicono andiamo a trovare lì e trombano, poi no, è arrivato e trombano, poi arriva Harley Quinn, ah sai che ti dico, me la trombo. Insomma, gli incastri sono questi. Incastri credo che sia la parola giusta. Sì, sia la parola più appropriata, giustamente. Sì. Invece il film di Batman, che si chiama tipo Batman XXX, è una parodia del Batman degli anni 60, del telefilm. Sì. Ed è fatta... Con Adam West, diciamolo. Sì, con Adam West con la panza. Ed è fatta benissimo perché prende per il culo tutte le idiosincrasie di quel telefilm. Quindi c'è il telefono rosso che squilla e Batman che dice potrebbe essere successo qualcosa, e Robin gli dice è collegato con la polizia, Batman cazzo risponde. Oppure ci sono loro che scalano il palazzo e la corda è molle e poi escono due persone da una finestra ed escono, vi ricordate Batman, siccome in verticale male, le persone escono inclinate come se stesse facendo il moonwalk, no? Tutte piegate in avanti, reggendo tipo la vecchietta che usciva con la torta incollata sulla mano e sembrava che la reggesse perpendicolare al suolo, e lì esce Ron Jeremy, il vecchio Ron Jeremy, e dice ah dai Batman vieni che facciamo una festa, ci sono belle donne. Quindi, insomma, è tutto pieno di gag così. Il Joker è uguale al Joker di allora. Sì, ho visto. Ha fatto, ma è identico. Ci sono tutti i personaggi, insomma, a far ridere. Basta evitare le fasi porno, ovviamente sono di una noia assurda, ormai il porno è superato. Il film vero e proprio è divertente. Ho capito, noto che hai un fornitore particolare per questa cosa. Scusa, che non ma il porno è superato da cosa? Dal porno, e chiaramente, no? Cioè, il concetto di film porno ormai non serve più a nessuno. Beh, giusto, sì, perché se vuoi la sequenza porno la trovi su internet. Beh, sì, ma perché ormai su internet ci sono le scene, ognuno trova la perversione che vuole, non esiste più il concetto, credo, no, di film porno. L'industria del porno è in crisi per quello. Quindi, meno male che avevamo 15 anni negli anni giusti allora. Il pornificio della San Fernando Valley, che quando vai tipo, che ne so, da Infinity Ward a provare un Call of Duty, poi loro ti portano in macchina e tu passi sotto il palazzo della Vivid e tutti quegli palazzi meravigliosi del pornificio che tanto hanno dato alla bassa manovalanza del porno negli anni 90, diciamo. Sì, comunque, meno male veramente che avevamo 15 anni negli anni giusti, perché se io avessi avuto YouPorn quando avevo 15 anni finiva malissimo. o si dimostrava l'assoluta infondatezza di quelle tesi sulla cecità. La prova empirica, diciamo così, no? O avrebbero fatto un sacco di soldi con gli allevamenti di cani San Bernardo. Si prova con mano, se mi passate la pessima battuta, che erano finte quelle teorie lì, oppure veramente si finiva brutto. Salutiamo Jenna Jameson, così giusto per scoprire la grande Jenna Jameson. Insomma, queste sacre icone del porno. E bene, allora io direi che possiamo passare all'ultimo argomentino veloce, la moda del reboot che si sta allargando a macchia d'olio su videogiochi, fumetti, un sacco di cose, eccetera eccetera. Non so neanche, nel 2012 credo arriverà di nuovo Spider-Man e probabilmente si racconteranno di nuovo le origini. Non ne abbiamo un po' le palle piene di tutti questi reboot? Cioè, capisco un Batman che comunque ha passato un periodo orribile con quelli di Schumacher, eccetera, eccetera, quindi siede probabilmente la Warner. Un Batman che comunque si avvia ad avere un altro reboot dopo che Nolan gli dà il bel servito alla... Sì. Ma infatti, sì. Come fa a dargli torto? Nel senso, questi vogliono fare un altro film sull'Uomo Ragno, per ovvi motivi non possono portare avanti l'altra saga perché è tutto un fiorire di vaffanculo da parte di quelli che la facevano. È normale che diventi un reboot. No, quello che contesto è la tempistica, cioè mi sembra un po' troppo presto, visto che comunque la Marvel ce n'ha di roba da buttare sul fuoco. Ma non è un film Marvel questo. Ah già, anche questo hai ragione. Perché Sony dovrebbe smettere di spremere l'Uomo Ragno se ritiene che possa fargli fare altri soldi? Mi spiegate un po' questo discorso del fatto che le case di produzione cinematografica debbano far uscire un film per non perdere i diritti, che io cosa non ho capito. Perché comprano i diritti per un tot di anni, hanno un tot di anni per sfruttare quei diritti che hanno acquisito, okay. E quindi devono farlo perché sennò poi se la prendono in saccoccia. Questo significa che escono dei film meravigliosi come Fantastici 4 di Corman, giusto perché non fare, oppure che tirano fuori l'ennesimo Spider-Man perché se no se la pigliano in saccoccia e penso tornino a Marvel Studios a questo punto i diritti. Marvel Studios, lo ricordiamo, ha incominciato a fare film chiedendo 5 anni fa, mi sembra, tipo 700 milioni di dollari a Merrill Lynch. Quindi quello ha iniziato poi a provocare il crollo della famosa banca d'affari americana. Ma sì, ma poi ripeto, se tu sei Sony, hai restituiti, quindi... sì, infatti, se tu sei Sony e hai i diritti per fare il film dell'Uomo Ragno in un periodo in cui escono 50.000 film di supereroi che fanno soldi, ma perché non dovresti farne un altro? Questo, okay, questo che ti spiega il motivo. E gli fai pagare poi 5 dollari in più ad ogni povero figlio, rischiando la vista e forse anche la vita. Che poi è lo stesso motivo per cui, cioè, dopo X-Men 3 è uscito Wolverine e poi hanno fatto questo nuovo X-Men, cioè continuano a farli, la gente li va a vedere. Sì, ecco spiegato il perché di reboot. Allora è una questione, cioè, prettamente fine. Sì, no, non avevo contato che, per esempio, di Spider-Man tutto il cast precedente ha mandato a fanculo, cioè comunque il progetto è morto in maniera alquanto triste, considerando anche il terzo film che non è certo il top della gamma, ecco. E anche lì, terzo film, immagino che Sam Raimi, un po' come Schumacher, fosse sotto pressione, perché non mi ricordo se era un rumor, comunque Sam Raimi voleva fare un film su Sandman. Sì, l'avvoltoio voleva metterci dentro. Comunque sicuramente Venom gliel'hanno imposto. Quello... Scusa Paolo, quando hai detto Sandman intendi il... Sì, sì, no, scusa, Sandman. Il Sandman di... Non si chiama Sandman, quello il cattivo, sì. Di... Ah, ok, di... No, pensavo avesse un progetto... Ah, ecco. No, non quello di Gaiman, no. Quello sarebbe veramente un'emozione enorme, solo che farebbe una merda. Cioè, quello non c'è modo per riuscire a fare un film bello su Sandman, temo. Beh. E poi c'è invece la questione di casi tipo Hulk, che il primo l'hanno visto in 4 e di quelli l'hanno gradito in 2, e quindi a voler fare un nuovo Hulk cambiano le carte in tavola e provano a rilanciarlo. No, ma quello effettivamente no, è quello che mi stupiva dell'Uomo Ragno, che comunque è una saga, i primi 3 film, che ha fatto successo, comunque anche il terzo l'hanno visto un casino di persone, e mettono un reboot. È vero che adesso a vedere le immagini dell'Uomo Ragno è molto emo, molto magro, tutto oscuro, probabilmente c'è un sacco di problemi, non mi stupirei se ci fossero i vampiri di mezzo, perché ormai li mettono ovunque, però effettivamente mi sembra un po' troppo compresso il reboot, visti i primi 3 film, che comunque il primo sì è del 2001, però comunque gli altri sono usciti abbastanza recentemente. Era quello che mi stupiva. Effettivamente anche Batman, sicuramente è finita la trilogia del Cavaliere di Nolan, tornerà con chissà cosa, e quindi speriamo che finisca con Nolan e basta. Perché... Tra l'altro vorrei ricordare che il regista del nuovo Spider-Man l'ha scelto solo perché si chiama Webb di cognome. Esatto. Il regista di cosa, scusa? Del nuovo Spider-Man. Ottimo. Per essere che molto... Che altro ha fatto? Ricordiamo anche che la zia May sarà Sally Field, la mamma di Forrest Gump. Secondo me non è abbastanza vecchia per la parte. No, non può, non è vero. Ma probabilmente se fanno anche più giovane Spider-Man... Ma lei è nata vecchia, zia May, non è che... Sì, è vero. Ma bene. Io ho sempre pensato comunque che il reboot fosse una scorciatoia semplice per sia il livello di sceneggiatura che tutto quello che poi ne consegue. Infatti, al suo tempo, quando annunciarono Superman Returns, sì, ha tolto di cappello a chi è il regista? Singer, per una volta non prova a ributtare che ci riuscirebbe chiunque, ma prova a riallacciarsi ai film, all'ultimo film di Superman, e io non so se a voi è piaciuto, io no, non ho particolarmente apprezzato. Allora, per me Superman Returns, allora, il film è uscito male, però i personaggi sono esattamente le riproposizioni di quelli che era una volta, cioè Kevin Spacey che fa è uguale a Gene Hackman, anche il Superman comunque molto simile, cioè il sequel secondo me è venuto bene, il film che è venuto male, non so come dire. Sì, vabbè, c'è un Superman che fa lo stalker. Sì. Va facendo i figli con le mogli degli altri, poi più tra parentesi. Non mi fa molto super, non è così all'improtta. Mo. Vabbè, ma lui se l'era trombata prima di partire per il suo viaggio catartico nello spazio. Ecco, è lei che poi. Sti cazzi, come va? No, comunque, tra l'altro, se li guardi in originale è impressionante, perché lì il patatone di Superman Returns proprio fa la voce uguale a quella di Christopher Reeve, ma uguale. Che anche Dylan Dog, tra l'altro. Sì, sì, ahimè. No, beh, anche Kevin Spacey è esattamente uguale a Gene Hackman, anche come movenze. Il problema è che è uguale anche la storia, cioè è un seguito che però, cioè il piano di Lex Luthor praticamente è lo stesso. Quando c'era lo spiegone del piano di Lex Luthor, io volevo uscire dalla sala del cinema. No, però a me non ha fatto così no, no, no, scusate, il modellino lì, cioè... No, per favore, dai. No, scusate, ho gli incubi ancora. Non gli è piaciuto a Paolo. Ma anche quella... la parte iniziale dell'aereo, se vogliamo, cioè parte proprio male, secondo me, il film. Cioè l'aereo che precipita Lois Lane, che viene sbatacchiata a 7G del veicolo, lui che ferma un aereo che sta precipitando tipo a 3000 km orari, lo ferma con le mani, non vengono tutti spatafasciati. Ho capito che la fisica nei fumetti di supereroi dovrebbe essere lasciata alla porta, però che cazzo c'è? A tutto c'è un limite. Beh, vogliamo parlare comunque di un kryptoniano che ingravida una terrestre? E non voglio immaginare il salaparto come sarà ridotto. Cioè, voglio dire, il figlio piglia a calci un mobile, lo lancia dall'altra parte della stanza, parto, deve essere stato tranquillo. Esce tipo l'alien, gli esce direttamente dalla parte. Però io sarei stato curioso di vedere un seguito, il figlio cosa combinava. Io no. Signora, mi sa che ci siamo quasi, ed esce il figlio. Un po'... Avrei timore di, tipo, se lo stesso tipo di timore che avrei se davvero lasciassero Shia LaBeouf lì fare il nuovo Indiana Jones come protagonista. Madonna, no, per favore. Però lui, cioè, vedo con lo spostare il cappello con sì proprio. Tra l'altro vorrei dire che negli ultimi tipo 30 anni la DC, a parte Watchmen, che tra l'altro non fa parte dell'universo tradizionale visto che non è collegato alla continuity dell'altro, del resto dell'universo DC, ha fatto soltanto film di Superman e di Batman. Cioè non hanno 10 miliardi di personaggi, non hanno fatto un cazzo che Green non Lantern. Green Lantern, stavo per dirlo io. Purtroppo. Vi ricordate il dramma di Green Lantern? Qui in Italia non è ancora uscito, perché hanno deciso di rinviare la questione a settembre, cioè in realtà a fine agosto, l'ultimo non agosto. Vi state perdendo conto di quanto faceva cagare, hanno detto sai che c'è, ne parliamo dopo l'estate, va. Quando ci sarà il Blu-ray rip da scaricare. Sì, no, perché in Italia stiamo attenti, no, con i film brutti, non li facciamo uscire in genere in Italia. In Italia quando un film esce, diciamo, negli ultimi 5 giorni di agosto, già sai che ti sputta malissimo. Cioè, se non è una contemporanea mondiale, ma esce solo in Italia gli ultimi 5 giorni d'agosto, quando proprio i cinema sono proprio chiusi, allora devi stare proprio molto attento. Cos'era, Andrea, che avevi detto? Avevo letto un tuo post che dice che in Germania era uscito un film ancora dopo che in Italia, non mi ricordo più cosa fosse. Vabbè, fa niente. Comunque in Italia è uscito 4 mesi dopo che negli Stati Uniti. Quindi. Però Thor, ricordiamo, è uscito 10 giorni prima in Italia rispetto agli Stati Uniti, Attenzione. Devo spoilerare a tutti gli amici americani che avevo nell'oggetto dell'email, proprio abbastardissimo, perché è uscito prima da noi. Bene, allora direi che con questa filippica sul reboot possiamo, allora, prima di tutto, dato che questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, che potrebbe prolungarsi per un sacco di tempo, quindi vediamo un attimo, compatibilmente con le attività, diciamo, del cast, leggiamo l'unica mail che ci è arrivata. In realtà questa mail ci arriva, questo ragazzo che si chiama Federico, l'ha inviata a più podcast, ma dato che l'ha riscritta completamente per ogni podcast, io la leggo lo stesso perché tutto sommato mi fa anche piacere, vero? Non è la solita main in streaming. Allora dice: ciao amici del tentacolo, sono Federico, un vostro fan che vi ascolta sin dalla prima puntata, quando fondaste il podcast insieme al mitico e desaparecido Gianluigi, che salutiamo. Ciao Gianluigi. Sono un appassionato di giochi di auto, pertanto vorrei chiedervi: qual è il gioco di auto che più vi ha appassionato nella nostra vita, nuovo o vecchio, quello su cui avete speso più tempo e passione? Allora, parlo per me, in sala giochi, i giochi che ho giocato di più sono sicuramente Outrun, Daytona USA, e un gioco che non mi ricordo di Formula 1, che si chiama Winning Lap, mi pare. A casa sicuramente Lotus Challenge per Amiga, GP2 e IndyCar 500 su computer, Amiga e PC, e ovviamente Gran Turismo, il primo su PlayStation. Diciamo che ad oggi gioco solo a Forza 3. Qualcuno di voi, se non erro, nessuno di voi è appassionatissimo di giochi di macchine, giusto? No, sì, non sono nella mia top 5 degli acquisti più ricercati. Però in sala giochi sicuramente Chase HQ. Ci ho buttato via le paghettine. Quello della Porsche che dovevi tamponare gli altri e sparare. Esatto. Okay. E voi due fanciulli? Io giocavo come se non ci fosse un domani ai primi due Lotus su Amiga. Belli quelli, veramente belli. E in sala giochi ho giocato tantissimo a Virtua Racing. Ogni volta che c'era manifestazione io andavo alla sala giochi a Porta Venezia a giocare a Virtua Racing in multiplayer. Tra l'altro ho scoperto poi di recente che un giornalista della concorrenza, che non citerò perché è la concorrenza nel sito su cui lavoro io, probabilmente giocavo in multiplayer con lui quando c'erano le manifestazioni. Dice, ah sì, lo facevo anch'io. Ma quando? Ah sì. E tu Alessandro? In sala giochi Outrun e Super Sprint, si chiamava quello con i quattro volantoni. Sì, con la scherma. Era anche quello. Sì, Super Sprint proprio alla morte in tutte le sue varianti, perché poi c'erano tipo 3000 cloni, Badlands o qualcosa del genere, cloni vari. E, a casa Ivan Iron Man Off-Road, che peraltro era un clone anche di Super Sprint, no? Mi sembra. Super Sprint, sì, quello con i gipponi. Sì, bello quello. E è il primo Gran Turismo. Non sono un grande appassionato, quindi è un po' che non mi dedico ai giochi di macchina perché mi scocciano, cioè almeno come giochi simulativi. Split Second, che non è un gioco di macchina vero e proprio, ma più un gioco action, mi è piaciuto abbastanza. Vabbè, sì, effettivamente i Burnout su PlayStation 2, quelli mi erano piaciuti tanto. Sì, sì, Burnout 3 soprattutto. Sì, il 3 era bellissimo, bellissimo. Sì, sì, sì. E poi, vabbè, Ho giocato per un sacco di tempo a Indy 500 andando in contromano. Fare gli incidenti fichissimi. Beh, Indy 500 era uno dei primi giochi con replay, che veramente una fisica spettacolare, cioè era avantissimo, proprio avantissimo. Beh, quelli della Papyrus, quelli di Indy 500 sono scomparsi dopo aver fatto... Hanno fatto tipo 15 giochi di NASCAR e poi sono scomparsi. Sì, sì, sì, sì. Peccato, perché quelli erano veramente dei draghi. Adesso con tutta la mania di simulazione che c'è, secondo me potrebbero... Forse loro erano addirittura troppo, perché se non mi ricordo male GP Legends era loro, quello... Sì. Quello... Sì, sì. Quello è magari... che fa la prima curva quel gioco. No, io in un anno credo di aver fatto tre giri a Monza senza andare a sbattere. Beh, comunque è facile che sia gente che è finita nei vari team che fanno giochi simulativi di qua e di là. Cioè. Sì, è finita sotto le ruote di sotto le ruote di Yamauchi. Che... Mentre vinceva, che tra parentesi pare che abbia vinto la 24 ore di qualcosa con il suo team, La 24 ore del suo quartiere. No, vogliamo raccontare anche qui il sapido aneddoto di Yamauchi che ho raccontato in ogni dove. Ma racconta. Un anno fa, due anni fa, quando due anni fa, due anni fa, due anni fa, eravamo con Andrea e con altri loschi figuri in Giappone per il TGS. E bisognava andare a trascorrere una giornata intera a sentire Yamauchi parlare di Gran Turismo. Cristo santo. Era ancora in uno stato totalmente embrionale, quindi sapeva già che la cosa puzzava di inculata. Abbiamo fatto un sorteggione in sala mensa. Io, anziché imporre come un coglione il mio ruolo di vertice e quindi farci andare uno di loro, ho partecipato democraticamente al sorteggione e mi è capitato il fiammifero più corto. Insomma, sono andato una giornata a godermi la compagnia di Yamauchi in questo studio fighissimo, però due coglioni stratosferici di Polifoni, ed ero fuori con gli altri giornalisti, doveva arrivare Yamauchi, allora tutti si chiedevano, ma con che auto arriverà Yamauchi? C'era un Toto Yamauchi che impazzava, perché diceva, ma arriverà secondo me con una Stratos d'epoca, tutta tirata a nuovo, bella blu metallizzata, e arriva con la sgommata, no, secondo me arriva con qualche modello, qualche prototipo della Nismo, eccetera, un'auto più storia, e alla fine è arrivato in taxi. È arrivato in taxi, è sceso, e tutti ci siamo guardati, è stato un momento molto molto triste. Però aspetta, il taxi che macchina era? Era un Lamborghini SV. Era un taxi di merda con il vecchietto che guida. No. Scusa, che taxi vuoi che fosse? Quelli con gli specchietti giganti, quelle auto assurde, per i taxi giapponesi. quelle che le porte che si chiudono al sole e si incavolano pure. Senti, ovviamente da continentale vai lì e la chiudi. Si incazzano? Sì, a meno che si sono incavolati, però non so. E poi la mail del nostro ascoltatore, vabbè, comunque continua, a lui vorrebbe sapere che macchina abbiamo. Io ho una macchina, una monovolume che è fatta per la famiglia, quindi non ho mai avuto macchine veloci, io corro solo nei videogiochi e basta, perché non me lo posso permettere, purtroppo. Mi piacerebbe tanto una macchina veloce, ma non posso comprarmela. E poi chiede: Andrea e il cieco cosa guidano? Voi ce l'avete la macchina, tra parentesi? Io avevo una Fiesta finché non l'ho venduta ormai da un po' di anni e sono e adesso sei un ciclista, sei, diciamo. Ma neanche, sto chiuso in casa. È un sedentario adesso. E tu, Paolo, guidi al contrario? No, in retromarcia. Guido a sinistra, ma con un mezzo catorcio che non ho i soldi per mettere una Hyundai Accent del 2000, cioè, no. Credo che, tra l'altro, la macchina che in Italia non avete mai visto, perché mi fa così cagare che non ce l'avete. Potessi andare in bicicletta, ma le strade che dividono casa mia dall'ufficio sono una corsia sola, non illuminate, e seppur non a livelli italiani, anche gli inglesi comunque gli piace pigiare sul pedale, ecco. Quindi non è raccomandabile. Tra l'altro, a casa mia su un cucuzzolo di un colle. E quindi dovresti farti il tappone in montagna. Esatto, quindi dal ritorno di lavoro, tipo dopo 8 ore e così via, arrivo lì e mi trovo la salitona. Non è proprio il caso. Col mulo. No. La macchina di Alessandro? Ah no, ecco cosa volevo chiedere. Alessandro, il ragazzo, scusate, io sono ospite. Io ho una Honda ibrida, un Insight, che ho comprato per due motivi: perché tengo molto all'ecologia e perché c'ha gli achievements. È la macchina con gli achievements. Davvero? Cioè, informatevi, Honda Insight, quando guidi bene ti premia con delle foglioline, quando tu guidi ecologico. E accumulando queste foglioline, parti dallo stelo semplicemente, poi ti fa la serie di foglioline a una fila, a due file, e poi alla fine c'è la coppa. Quando tu arrivi proprio al livello massimo, cioè prendi la coppa e poi ricominci da capo, che è una sorta di versione, come si chiamava in Call of Duty, quando ricominciavi da capo. Sì, certo, leggenda o qualcosa. Il salvataggio plus, cos'è? No, Elite, che cos'è? Insomma, quando ricominci da capo non mi viene. Comunque, devi ricominciare, che è questa cosa molto zen che devi ricominciare. Fa anche molto Nintendo, questa cosa, devo essere sincero. Comunque, volevo dire al nostro amico che vive in Inghilterra che la Lancia, non so se hai mai notato che da voi non ci sono Lancia e non le vendono. Sì, l'ho notato, sì. Perché tutte le volte torno in Italia mi rifilano all'autonoleggio, vai la Lancia, faccio no. Non ci sono Lancia perché qualche decennio fa la Lancia ha prodotto una serie di auto talmente fallate che l'ha dovuta ritirare dal mercato e si è ritirata dal mercato inglese per la figura magra. E adesso lanceranno sul mercato, se non hanno già lanciato, la Y e un altro paio di macchine rimarchiate Chrysler. Quindi quando tu vedi le Chrysler sono Lancia rimarchiate, che sono Fiat rimarchiate, così giusto per anche il nostro ascoltatore. Comunque. Arriva il marito della Bellucci tutto incazzato, compratevi queste macchine del lusso, eccetera, eccetera. Come nell'odio, e picchia nella tutti. Pubblicità, no, come nella pubblicità che sta facendo adesso per la Y. Sì, sì, no, ma visto che il ragazzo ha sempre partecipato a dei film poco violenti, tipo L'Odio, Doberman, i film di Porpora, proprio. Lui basta che a un certo punto possa far vedere che sa tirare i calci volanti. Esatto. È quello. Bene, allora abbiamo concluso questa puntata speciale sui fumetti e i film, e io ringrazio innanzitutto Alessandro, che è stato con noi, e oltretutto ha dovuto lasciare tutta la famiglia in giro per poter registrare. Grazie, Alessandro. Prego, ma siamo in due, quindi non era così comunque difficile. Sì, in effetti, messa così sembra che ha fatto a pezzi la moglie, sì. E l'ha sparsa in giro. Una famiglia argentina di 14 nipoti. No? Ringrazio ovviamente Paolo e Andrea, che come sempre sono stati iper gentili a partecipare. E ti facciamo sto favore. Grazie. Nonostante vi abbia spammato un link del trailer fasullo di Batman di Dark Knight Rises. Vabbè, non è fasullo, è vero? No, è fasullo. Non so che quello che ha linkato perché non ho cliccato, ma c'è al giro già il teaser, quello che mettono insieme Harry Potter. Sì, ma forse sì, io ti ho linkato una stronzata. Scusa, no, che l'ho visto l'altra notte, l'ho visto. E comunque ringrazio tutti e vedremo poi dopo l'estate, quando tornare, un salutone e buone vacanze a tutti. Ciao ciao! Spider-Man, Spider-Man, to Sempre i contatti del Tentacolo Viola sono il blog iltentacoloviola.wordpress.com, dove potete trovare anche i link alla nostra pagina Facebook e al nostro account Twitter, che per la cronaca è twitter.com/iltentacolo, e la mail iltentacoloviola@gmail.com. Ovviamente ci potete trovare su iTunes semplicemente cercando Il Tentacolo Viola. Vi ricordiamo che il blog del dottor Manhattan, ovvero l'antro atomico, è docmanhattan.blogspot.com, e vi ricordiamo anche che è uscito il sesto numero di Players con una nuova formula per donatori e non donatori, un numero molto bello e che vi consigliamo ovviamente di andare a reperire su playersmagazine.it. Come detto durante la puntata, il Tentacolo si fermerà un attimo per la pausa estiva e vedremo quando tornare anche dopo Fiere di Colonia, eccetera eccetera. Un salutone e buone vacanze a tutti, se le fate. Ciao ciao!